9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Perugia, dal Festival Internazionale del Giornalismo. Ci troviamo in onda ai nostri studi, se così possiamo chiamarli. In realtà è un bar dell'hotel Brufani, dove ottimamente Valeria Bernardi e Davide Ciocia hanno attrezzato i nostri studi, dove c'è anche un po' di pubblico in questo momento. Se volete, potete, se siete a Perugia, potete raggiungerci anche qua. Il nostro Angelo dalla provincia di Bergamo, che mettiamo sempre all'inizio della sigla, guardate, che non lo toglieremo finché un governo qualsiasi, non so se sarà quello di Letta, non avrà la fiducia. Di questo torniamo a parlare oggi, poi magari la settimana prossima riusciamo anche a sganciarci un attimo, nonostante l'attualità politica sia piuttosto pressante. Potete commentare all'800240024 per intervenire in diretta, potete scrivermi su Twitter Simone Spezia oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24. Non ho resistito al gioco di parole, nemmeno io, ve ne chiedo scusa. La domanda che vi facciamo, che vi abbiamo fatto su Facebook, è se l'ipotesi di governo vi alletta. Scusate davvero. Allora, salutiamo innanzitutto Riccardo Nuti, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La prima domanda che le faccio, visto che siamo in diretta dal Festival Internazionale del Giornalismo, però non è sulla politica, ma come mai noi giornalisti stiamo così tanto sulle scatole, Nuti? Ma in realtà manca un pezzo nella domanda, o meglio, noi stanno sulle scatole i finti giornalisti e invece amiamo i bravi giornalisti. Io qualche settimana fa, forse più di un mese fa, ho fatto una piccola nota dove dicevo i finti giornalisti rovinano i bravi giornalisti, perché in questo paese ci sono tantissimi bravi giornalisti che fanno delle serie inchieste giornalistiche che comunque trattano argomenti andando in profondità e non il solo gossip politico, che vengono sminuiti, vengono comunque rovinati, il loro lavoro viene rovinato da un giornalismo che invece si basa sul gossip e sul contenuto alquanto scarso. Questo è principalmente la nostra contestazione. Però alla fine succede però che fate di tutta l'erba un fascio, insomma, quando poi vi sentiamo parlare, abbiamo sentito quelle dichiarazioni, per quanto no, prese in una situazione piuttosto confidenziale, di Vito Crimi, quello che dice lo stesso Beppe Grillo, insomma, dal suo blog. Devo dirle che ogni tanto, insomma, ci preoccupa anche, no? Guarda, secondo me invece i bravi giornalisti non devono preoccuparsi, anzi, io dico che con il Movimento 5 Stelle i bravi giornalisti dovrebbero, come dire, andare a nozze, perché dovrebbero avere dei politici che vogliono un attimino approfondire certi argomenti e soprattutto dei politici che vogliono scoprire delle notizie, che non le nascondono, e per un giornalista lei mi insegna che la notizia è tutto. No, per carità, io non insegno niente. non usiamo queste espressioni. Per smentire un pochettino anche questo effettivamente che c'è questa specie di antipatia verso i giornalisti, che non si riesce a far capire che c'è una distinzione, che noi abbiamo candidato come Presidente della Repubblica in prima istanza Milena Cabanelli, che è proprio tra l'altro giornalista dell'odiata TV. Senta Nuti, veniamo alla politica. L'impressione, quando abbiamo sentito, se non erro, proprio Crimi dire, o forse la Lombardi, non vogliamo rimanere nell'angolo, l'impressione è che Letta nell'angolo vi si abbia messo alla fin fine, vi si abbia messi, chiedo scusa. Ma più che altro Letta non ha dimostrato di non avere volontà di renderci protagonisti, cioè di ascoltare veramente le nostre istanze, ma come dire, trattarci un po' come degli elementi della politica che ci siamo, ma non dobbiamo dare troppo fastidio. Più che altro dobbiamo accettare quelle che sono la loro idea di riforma, che ripeto, noi la valuteremo caso per caso, come abbiamo più volte sottolineato. Non è un no a priori, ma non è neanche un sì a priori, perché l'esperienza ci ha insegnato che in Italia siamo pieni di finti cambiamenti. E sinceramente noi non vogliamo i finti cambiamenti, vogliamo dei veri cambiamenti e vogliamo vedere i fatti. Non vi sentite nell'angolo, quindi non vi sentite nell'angolo? No, noi non ci sentiamo nell'angolo, ci sentiamo semplicemente un po' isolati, perché la classe politica, dal PD al PDL, alla Lega, Scelta Civica e così via, hanno fatto quadrato e così ci hanno un po' isolato. Si è visto il giorno della sesta votazione, dove praticamente tutto il Parlamento, una volta che si è raggiunto il numero di 504 voti per il presidente napoletano, oltre ad essersi alzato per applaudire l'elezione di Napolitano, gridava a noi buffoni, buffoni, buffoni. O altre, diciamo, provocazioni che venivano fatte dai banchi del PDL, così come qualcuna, per fortuna rara, del PD. Questo, secondo noi, non è un atteggiamento responsabile che tiene conto di tutte le forze. Se noi abbiamo un'opinione diversa, non è corretto insultare in questo modo degli altri parlamentari. Sotto questo punto di vista c'è questo isolamento. Cerchiamo di fare le nostre proposte, poi sono loro che devono dimostrare se vogliono accettare delle proposte serie di cambiamento, se vogliono continuare a dire no ed è colpa del Movimento 5 Stelle. Saluto anche Sandro Gozzi del Partito Democratico, buongiorno anche a lei. Buongiorno. E Deborah Bergamini del PDL, buongiorno. Buongiorno. Partirei da Gozzi, quindi rimaniamo nell'ambito di chi non è un granché convinto da questa ipotesi di governissimo. Io non ho capito una cosa, Gozzi, lei lo voterà oppure no? La voterà oppure no la fiducia a questo governo? Ma io diciamo che al momento ho grande fiducia in Enrico Letta, che conosco da tempo, persona competente, persona giovane, certamente la persona giusta. Non mi parli in politichese, però Gozzi. Non posso avere né fiducia né sfiducia sul resto, perché di che cosa dobbiamo parlare? Io non so ancora come il governo sia composto e non so ancora su quale programma. Credo, ho indicato quali sarebbero, secondo vari di noi, le nostre preferenze, cioè dovrebbe essere un governo che non rimette dentro le prime file i protagonisti degli ultimi 20 anni di battaglia da destra a sinistra, non mette dentro un pezzo dell'ultimo governo Berlusconi prima di Monti, non mette dentro protagonisti di governi del centro-sinistra, mette dentro dei politici di destra e di sinistra che assieme a Letta rappresentano quel cambiamento, quella necessità di passare a una nuova fase sulla quale lo stesso Napolitano ci ha giustamente ricordato abbiamo fallito come forze politiche. Facciamo un esempio. Sì, aspetti un attimo Gozzi, facciamo un esempio molto pratico, no? Oggi c'è un'intervista al Corriere della Sera di Silvio Berlusconi nella quale dice Saccomanni al Ministero dell'Economia no perché l'epoca dei tecnici vogliamo chiuderla. Brunetta dice, testuali parole, è uno un po' incazzoso però è competente, magari Ministro dell'Economia ma sotto no, però sottosegretario sì. Ecco, un governo con dentro un Brunetta, quindi lei non lo vota, non gliela vota la fiducia. Governo con dentro Brunetta mi crea dei problemi, è chiaro che voglio vedere l'intera composizione, ma soprattutto per fare cosa, perché io credo che le urgenze per rispondere agli italiani siano state indicate molto chiaramente nell'agenda dei saggi del presidente Napolitano. Io credo che il governo dovrebbe fare il massimo possibile di quell'agenda nel minimo tempo possibile, è questo che deve fare, e ricordo che in quell'agenda ci sono questioni elettorali e istituzionali di cui abbiamo dibattuto per 20 anni e per le quali non c'è bisogno di dibattere altri 4-5 anni, e ci sono innanzitutto una serie di questioni urgenti economiche e sociali, a partire dai crediti della PA nei confronti delle imprese, arrivare alla cassa integrazione che sta scadendo in giugno, agli esodati, a varie questioni legate anche al mercato del lavoro, sulle quali occorre alle questioni legate alla necessità di un'altra politica economica europea, fondamentale che ci sia un cambiamento, sulle quali certamente occorre che la politica e il governo dia delle risposte immediate. Allora, è questo governo o è un governo con un'agenda amplissima di larghe intese, di una legislatura, con un pezzo dell'ultimo governo Berlusconi e un pezzo dell'ultimo governo di centrosinistra? Se è il primo, certamente è qualcosa di positivo. Se è il secondo, noi abbiamo dei grossi problemi. Dei grossi problemi. Poi verrò con lei alle questioni interne del Partito Democratico, perché insomma in queste ore è stato ripetuto da più parti, per esempio da Dario Franceschini, ma anche da Roberto Speranza, che chi non vota la fiducia a questo governo, insomma, qualunque tipo di governo si faccia, è fuori dal Partito Democratico. E questa è una questione che le vorrei far commentare. Ci scrivete sulla pagina Facebook alla domanda se questa ipotesi di governo vi alletta. Chiedo ancora scusa, ripeto, non ho resistito al gioco di parole. Ci scrive Laura: non molto, vedremo quali saranno le sue priorità. Se inizia subito a salvare il di dietro di Berlusconi con la scusa delle larghe intese, voglio vedere con che coraggio gli elettori del PD li rivoteranno. Ancora Mario ci segnala, perché sui titoli dei giornali c'è anche questo, l'ipotesi Amato e D'Alema, dice: ma perché ci dobbiamo sopportare anche questi reperti della Prima Repubblica che hanno dimostrato di valere poco tecnicamente e soprattutto umanamente? Questo il giudizio di Mario, naturalmente. Deborah Bergamini, ecco, qua mi sembra che stiamo toccando uno snodo fondamentale dello snodo delle trattative di queste ore. La mia impressione è che sia molto un gioco di tattica, sia da parte vostra che da parte del Partito Democratico, ma lei negherà fino alla morte, naturalmente. Però l'impressione è che voi vogliate invece un governo di forte caratura politica, così si dice, qualsiasi cosa voglia dire questo, insomma, comunque con personaggi importanti relativi al vostro partito. Sì, noi lo abbiamo chiesto dal primo giorno, dopo aver letto i risultati delle elezioni dell'ormai lontanissimi 24-25 febbraio. Abbiamo detto che serve dopo l'esperienza che per quanto ci riguarda è stata davvero da dimenticare del governo dei tecnici, che pure abbiamo sostenuto per 16 mesi, no, meno 14 mesi, quelli che sono stati. Noi chiediamo un governo a forte caratura politica, perché di questo abbiamo bisogno se vogliamo essere più forti anche nel momento in cui ci dovremo comunque apprestare a insistere per la rinegoziazione di certi tratti di austerity imposto al nostro paese dall'Unione Europea. Quindi noi lo chiediamo, e devo dire che la scelta del Presidente della Repubblica Napolitano di dare il mandato a Enrico Letta va proprio in questa direzione, visto che Enrico Letta è non da oggi uno dei protagonisti e uno dei massimi dirigenti della segreteria del Partito Democratico. Quindi non cambia la nostra linea, non ci sono tattiche, ma sicuramente mi rendo conto che l'esercizio dei toto nomi per i ministri è forse quello più interessante. Un po' di tattica c'è, però, in questa fase, però, non possiamo negarla, perché, no? Perché sennò diventa difficile interagire. E quindi quello che a noi interessa è non prendere, non perdere ulteriormente tempo e stabilire una piattaforma politica operativa da subito. Questo è il gioco difficile, questa è la difficoltà. Si può trovare l'accordo sui nomi dei ministri, ma deve essere un di cui rispetto a come si concorda il piano d'azione che vogliamo mettere in campo per la vita di questo governo, che sia un anno, due anni. Noi ci auguriamo, l'ha detto anche Berlusconi, ci auguriamo che sia un governo assolutamente duraturo. Quindi dove si sta facendo il lavoro è sui contenuti dell'azione di questo governo. E certo, restituzione dell'IMU irrinunciabile per voi? Sì, per noi è un punto vincolante, perché non perché la nostra campagna elettorale è stata fatta con al centro il punto dell'abolizione dell'IMU e della restituzione dell'IMU pagato, ma perché il nostro principio fondante è proprio questo. Troppe tasse stanno distruggendo la vita dei nostri concittadini, a cominciare dalla tassa sulla casa, ricordando che gli italiani sono per il 70% proprietari di case, un'anomalia tra virgolette rispetto al resto dell'Europa, e che quindi si va a colpire il cuore della ricchezza e anche dell'autopercezione di tranquillità degli italiani. Va tolta l'IMU. Vorrei tornare a Riccardo Nuti, perché poi io so che a un certo punto ci dovrà lasciare, del Movimento 5 Stelle. Io c'è un'altra questione che vorrei affrontare con lei, che non riguarda specificatamente le vicende di governo, e però è una vicenda allucinante, che è questa dell'hacking dei vostri indirizzi di posta elettronica, delle vostre caselle di posta elettronica. Addirittura oggi Libero parla di un porno ricatto, così scrive, glielo leggo com'è, foto hard, porno ricatto ai grillini, attacco informatico ai PC di 30 onorevoli, alcuni custodivano immagini di se stessi a luci rosse. Siete preoccupati da questa cosa? Come vi state muovendo, vorrei capire. Ma guardi, devo dire che le persone coinvolte per quanto riguarda questo video che è circolato sul web sono tante, sono tanti parlamentari. Abbiamo parlato con l'ispettorato della pubblica sicurezza, loro ovviamente procedono d'ufficio ed è già stata aperta un'inchiesta a riguardo. Molti di noi devo dire che hanno una preoccupazione pari a zero, nel senso che hanno poco da nascondere o per lo più sono delle mail che non usano da anni, come per esempio la mia, quindi anche volendo non c'è proprio niente in quelle che sono le mail, se non vecchie iscrizioni al newsletter e così via. Certo che è grave che invece ci siano delle mail di parlamentari che utilizzavano quella casella, dove ci sono anche degli elementi, dei dati personali, e questo deve essere evitato, è gravissimo una cosa del genere, soprattutto è gravissima anche la minaccia. Sì, questo naturalmente, ma voi non avreste problemi a che fossero pubblicati contenuti politici di queste caselle email, o sì? Ma bisognerebbe chiedere ai diretti interessati, per quanto mi riguarda no, non c'è nessun problema, ma ripeto, non c'è in quella casella mail che viene indicata, non c'è pressoché nulla a riguardo. Nulla, perché è roba vecchia, insomma, prima era una che casella di posta elettronica che non usavo da 3 anni. Quindi figuriamoci. Iuri dalla provincia di Siracusa, buongiorno. Sì, buongiorno Radio 24. Avevo telefonato semplicemente per dire ai grillini di stare sicuri, perché il giorno in cui li vogliono mettere fuori campo non useranno questi mezzi bassi, ma useranno l'esplosivo come hanno già fatto con Falange Armata. Il problema del governo Letta è che è un governo debole. Poi tra l'altro, per tornare su Falange Armata, vabbè, sarebbe un altro dibattito, ma voi ci siete dentro, perché Landi rilasciò un'intervista da voi prima di morire, ma poi questa ve la faccio in un'altra puntata. Il problema del governo Letta è che è un governo debole, nasce male, i soldi che stanzierà servono solo per i baroni e finanziano quel 30% che ha votato Berlusconi. Questo è un governo che preparerà la strada e la scalata a Berlusconi, semplicemente questo. Grazie. Gigi da Firenze, buongiorno. Buongiorno, anch'io sono un elettore deluso, ma non come quello di prima. Io sono un ex di sinistra, ma sicuro votante Movimento 5 Stelle. Io faccio una domanda però alla Bergamini, e questo è su quello che volevo puntare. Adesso le leggi, io seguo la politica, le fanno in Europa. È mai possibile che si manda noi cittadini delle persone sconosciute, perché c'è questa puntini, riforma elettorale, legge elettorale, che anche in Europa, dove in Europa ci sono gli altri che conoscono 4 lingue e noi abbiamo dei parlamentari che non sanno neanche il dialetto di casa propria. Come si fa, perché la politica viene fatta lì, a richiedere la sostituzione del fiscal compact? Ieri è stato fatto in streaming, chi lo ha, bello, sbagliato, eccetera. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto dei punti anche su questo, perché non si fa anche, si dichiara che lo streaming è brutto, perché non si fa vedere anche il PDL o il PD, cioè, o altri, cosa richiedono perfettamente al nuovo Presidente? Io spero che Letta, e sono un elettore del Movimento 5 Stelle che ragiona con la propria testa, che faccia il nuovo, significa mettere delle persone tecniche al di sopra dei partiti. Riassumo, mi la interrompo, riassumo io perché ho capito il concetto, anche se l'esposizione è un po' confusa. Il tema è la questione europea, della quale lo stesso Letta ha parlato, della quale il Movimento 5 Stelle ha parlato, ed è un tema sul quale torneremo, perché è il vero tema centrale di tutta la vicenda politica e dalla quale dipende naturalmente l'agenda di governo. Maddalena da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Se volevo aspetti Maddalena, la fermo, perché è il momento della nostra pausa, la sentiamo subito dopo. Ed eccoci all'800240024, ci ha chiamato Maddalena da Milano, che abbiamo solo salutato prima. Eccoci, sì, qua Maddalena. Va bene. Niente, volevo appunto parlare di Letta. Io stimo molto Letta, però dopo insomma l'incarico che le han dato, nel modo in cui ha parlato, non è che mi è piaciuto molto, un po'. Perché? Non ha convinto abbastanza, dovrebbe essere più incisivo, più determinato. Non so se riesca ad avere la maggioranza, perché se dovesse chiedere la fiducia sicuramente non penso che lui ce la faccia, ecco. Ah, secondo lei non ce la fa. E mi dispiace molto, perché è giovane, non è mai successo che ci fosse appunto un leader così, però Letta si deve dare una mossa, dovrebbe convincere molto di più. Si deve svegliare, si deve svegliare. Sì. Grazie Maddalena. Io adesso voglio tornare a Sandro Gozi per capire questa questione delle espulsioni nel Partito Democratico, perché questa è una questione insomma aperta, no, all'interno del partito, visto che Civati e Puppato già protestano. Lei è tra quelli, come già ci spiegava prima, in bilico, perché dipende da cosa decide di fare il governo, qual è l'agenda e naturalmente qual è la caratura politica di questo governo, continuiamo ad usare questa espressione, e però insomma a questo punto è anche a rischio espulsione in qualche modo, in dipendenza dalla sua decisione naturalmente. Come la vede questa cosa? Guardi, il voto di fiducia non è un voto di coscienza, ma è un voto di grandissima responsabilità. E quindi la fiducia a un governo la si dà quando si sa che governo è e quando si sa cosa vuol fare quel governo. Trovo le uscite e le minacce di espulsioni assolutamente improvvide, assolutamente inopportune, perché dopo quello che è successo nelle votazioni del Presidente della Repubblica in Parlamento, la prima fiducia di cui i democratici hanno bisogno è quella tra di loro all'interno del gruppo. Noi dobbiamo ricostruire la fiducia tra di noi prima di decidere la fiducia al governo, e non credo che le minacce di espulsioni siano il miglior modo per ricostruire la fiducia tra di noi. Credo anche che finalmente, a differenza di quanto è avvenuto sinora, non dovremo essere convocati 10 minuti prima di prendere una decisione, ma dovremo dare vita a un lungo dibattito all'interno del gruppo per spiegare perché chi ha dei dubbi, chi ha delle perplessità, chi ha delle informazioni da richiedere, e possa farlo, possa esprimersi, ci sia un dibattito, ci sia lo sforzo di capire e capirsi. Non credo che invece i diktat o fai così o ti caccio via siano molto utili e aiutino molto. Ecco, io inviterei invece tutti a moderare i toni e a capire che dobbiamo avere alcune persone hanno dei dubbi, devono essere chiariti, altri vogliono sapere quali sono gli obiettivi. Non è con le minacce che si ricostruisce una fiducia che non c'è più, perché dopo quello che successe, dopo i 101 parlamentari che non hanno votato il fondatore dell'Ulivo, Romano Prodi, lì è chiaro che c'è un patto di fiducia che è venuto meno, c'è un patto di realtà che è venuto meno. Per me la politica è dire quello che sai e poi fare quello che dici, e la politica è dire con lealtà pubblicamente nelle sedi opportune le tue posizioni, confrontarti, non fare i tranelli o i tradimenti dietro le quinte, dietro le spalle. Adesso dobbiamo guardare avanti ovviamente, perché siamo lì per quello, siamo lì per risolvere i problemi della gente, ma dobbiamo anche tra di noi ricostruire quella fiducia che non c'è più. Con le minacce è un passo indietro, non è un passo avanti. Grazie Gozi, io so che ci deve salutare e quindi la saluto. Tra poco ci deve salutare anche Riccardo Nuti, quindi riprendo lui e poi torneremo sulla Bergamini, anche perché è arrivata una precisa domanda per lei da un ascoltatore, oddio non precisissima, però diciamo è arrivata una domanda per lei da un ascoltatore poco fa. Voglio capire, Nuti, se però a questo punto due elementi fondamentali. Iniziamo dal primo. Se avete riscontrato un miglioramento, almeno questo ce lo può dire, rispetto all'incontro con Bersani. Insomma, la nostra impressione da osservatori esterni è che il miglioramento ci sia stato. Però, insomma, chiedo a lei. Ma più che altro c'è stato un miglioramento perché si è parlato di contenuti. Poi il fatto che se c'erano meno punti d'incontro, questo sarà tutto da vedere nella realtà dei fatti. Però sicuramente quando si parla più di contenuti piuttosto che a grandi linee di dare una fiducia in bianco come è accaduto in precedenza, ci si rapporta meglio. Sicuramente con noi questo è stato una sensazione condivisa anche con altri giornalisti effettivamente. E il problema della politica non è tanto poi di cosa si sta parlando, è se questa, se questi punti, se questa, se chi espone questi punti è credibile o meno. E noi abbiamo sottolineato come alle osservazioni del presidente Letta di un nostro congelamento, del nostro dire no, di non voler dare la fiducia a Bersani in passato, come questo derivi da una mancanza di credibilità della politica che lui stesso ha ammesso. E quando ci dica una cosa. Letta, mi scusi, prego, finisco. Prego. Quando lo stesso Letta ci rimprovera, ah ma voi non avete votato Prodi che era uno della vostra lista, ma per carità, a parte che era l'ottavo su nove, a parte che Rodotà non era di una loro lista ma era proprio una persona del centro-sinistra, quindi non si può dire che era un nostro nome, se non il fatto che lo abbiamo fatto per primo noi, ma la cosa assurda è che non l'hanno votato neanche loro compattamente Prodi, e se non l'hanno votato loro Prodi dobbiamo votarlo noi, mi sembra incredibile. Un paio di domande, un po' di contorno, le ultime due che le voglio fare, e riguardano questa questione di Bilderberg. Non ci dica che veramente questa storia che Letta è dentro Bilderberg è una cosa importante ai fini della valutazione dell'uomo e del governo. Ma non l'abbiamo espressa io. Beh, Grillo l'ha scritto. Ma non è questo, cioè nei contenuti che abbiamo affrontato ieri, non è questo un argomento, sicuramente può essere positivo o negativo, e probabilmente per tanti aspetti può essere negativo, ma non è questo il vero problema. Il vero problema è quello che si vuole fare e la credibilità che si ha nel volerlo fare. E noi chiediamo dei fatti, però se questi non ci sono, è inutile che continuiamo a dire ah no, voi non volete il cambiamento. No, noi non vogliamo il finto cambiamento. Ultima cosa che le voglio chiedere è su questa storia del 25 aprile che è morto. Le devo dire francamente tutta la mia perplessità di fronte a chi usa quella data ai fini della battaglia politica, ma non riguarda solamente Grillo, è una mia opinione da sempre, per quanto conti e per quanto appunto lo dica molto modestamente. Insomma, a me non è piaciuta tantissimo quest'idea, e che il 25 aprile sia morto a fronte di questo, aperte virgolette, inciucio, chiuse virgolette, altra bruttissima parola. Io lo comprendo le sue osservazioni, però anche bisogna comprendere il vero senso del post. Noi al 25 aprile, come sa, siamo andati sia a Roma sia nelle altre città dove ogni parlamentare del Movimento 5 Stelle era presente, perché crediamo nei valori della Costituzione e crediamo che l'antifascismo, la liberazione in questo senso. Insomma, mi scusi Nuti, per essere più precisi, sì. Insomma, confondere fascismo versus resistenza con governissimo, opposizione al governissimo, mi sembra un po' troppo, in tutta sincerità, ecco. Sono due aspetti diversi, però non si può far finta che non ci sia un grave problema da questo punto di vista, perché in questo paese purtroppo la democrazia, il confronto che tanto si invoca, il cambiamento, viene assolutamente oscurato da questo finto cambiamento che è questo inciucio, chiamiamolo così, come ha detto lei, una brutta parola, ma questa è, che è stato fatto. Perché quando gli accordi si fanno sotto banco per non fare dei cambiamenti veri per il paese, per mantenere i propri privilegi, è vero che forse, come diceva ieri Roberto Fico, ci vuole una seconda liberazione. Ma è morto sto 25 aprile oppure no? Sotto un certo punto di vista sì, sicuramente sì. Ma non rimane, non è morto in quello che è il nostro ricordo e quello che noi vogliamo fare quando andiamo alle celebrazioni. Su quello, guardi Nuti, io glielo devo dire, state diventando politicissimi, sotto un certo aspetto sì, è una risposta micidiale, insomma. Beh, ripeto, ci sono due aspetti... Si scherza, lei ha sottolineato una cosa, sono due aspetti diversi. E su questo concordo, però non si può far finta che il secondo aspetto non ci sia in questo paese. Grazie Riccardo Nuti, buona giornata. Prego, lei, grazie. Prima di tornare a far intervenire Deborah Bergamini, ho una domanda di Marisa da Como che credo che sia anche rivolta al PDL. Marisa, buongiorno. Buongiorno, grazie. Prego. Volevo semplicemente dire che guardo alla restituzione dell'IMU, della tassa, a me personalmente non importa granché, perché ho pagato circa 600 euro, che non sono pochi, ma ormai sono pagati, basta, sono andati. Se quei pochi soldi o tanti che sono li potessero adoperare per far ripartire l'economia, l'industria, quello che sia, forse sarebbe meglio, nel senso che i miei figli, grazie a Dio, lavorano, però cioè non è un momento buono, e se quei soldi lì fossero adoperati per aiutare le aziende, l'economia, le famiglie, non so, riparte tutto e forse sarebbe meglio. Bergamini, allora, ecco. Sente l'obiezione, ha sentito l'obiezione sull'IMU, sì, sulla restituzione dell'IMU? No, questo d'accordo benissimo, se l'ascoltatrice dice pagati quei soldi, che è un po' un principio che sta... Per quando, per te si alzano sempre le tasse, no? Si fa sempre in modo temporaneo, poi una volta i soldi sono presi, invece l'idea di restituirle è proprio legata al fatto di rimettere i soldi in tasca agli italiani, perché è quello che farà ripartire la nostra economia. Se gli italiani continuano ad essere depredati e saccheggiati da un carico di tasse oggettivamente ormai insopportabile, mi riferisco sia alle famiglie che alle aziende, l'economia non si riprenderà mai perché non si potrà spendere denaro, quindi direi che siamo d'accordo su questo. Sì, poi però comunque il 1 luglio aumenta l'IVA e quindi restituisco l'IMU, però poi aumenta l'IVA e quindi con i consumi fermi infatti, siamo. Insomma, infatti no? L'obiettivo è anche quello di cercare di bloccare questo aumento di un ulteriore punto percentuale dell'IVA che è appunto in programma dal 1 di luglio. Anche qui questi sono tutti elementi che rientrano nel tavolo di costituzione di questo governo. Noi dobbiamo davvero, per quello che riguarda il Popolo della Libertà, naturalmente portiamo avanti un punto che non portiamo avanti da oggi, che è quello di abbassare il carico fiscale, perché se no non ci sarà nessuna ricetta che consentirà a questo paese di far riprendere un minimo l'andamento della nostra economia. Sentiamo Gavino che ci chiama da Milano, buongiorno. No, non lo sentiamo. Ugo da Firenze, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno, grazie per questa opportunità che mi avete dato. Io mi permetto, non sono di primo pelo, ho 67 anni e quindi sono stato sempre molto attento, tra le altre, a queste vicende politiche, a questo alternarsi, saliscendi, allo spendere parole, a questi politici che poi sono politicanti, perché la vera politica è quella che fa l'interesse del cittadino e della nazione, invece questi hanno dimostrato di essere politicanti, hanno fatto loro l'antipolitica. Io voglio dire questo, Sadacchiani prima l'ho sentita nella trasmissione precedente, si è ripresentato adesso questo discorso sulla compattezza che si deve tenere all'interno del partito. Grillo, premetto che insomma mi può rimanere anche simpatico, però lui ha dato compattezza al suo partito, ha posto delle regole ben precise e le fa rispettare, e le rispettano soprattutto chi più appartiene. Il PD adesso vorrebbe far rispettare le regole e espellere chi non le accetta. Quindi ci sono, criticano Grillo nello stesso tempo perché lui si comporta in modo dittatoriale. Quindi a questo punto cosa ci sono? Due leggi, due giustizie, due modi di fare, cioè le fa uno è giusto, le fa un altro è sbagliato. Sì. Le confesso che su questa storia delle espulsioni ho qualche perplessità anch'io nel mio piccolo. Maria Luisa da Monza, buongiorno. No, ascolti, io volevo dire, oggi alla vostra radio, ascoltando in mattinata la vostra radio, ho sentito parlare la Serracchiani, ho sentito parlare questo esponente del movimento di Grillo. Parliamo, il quale ha imparato anche lui ad arrampicarsi sui vetri, come hanno fatto sempre tutti i politici, secondo me, di tutti i partiti. Io vorrei ascoltare, visto che fra un po' andremmo a votare comunque, qualche trasmissione che parlasse di quella che è la realtà economica del nostro paese, le spiego, nel senso, sempre più si dice, e non lo dice solo Grillo, lo dicono, ho sentito direttori di banca, persone impegnate economicamente, che c'è una situazione economica disastrosa, che non ci sono i soldi, che, e non solo lo dice Grillo, fra un po' si dice non ci saranno soldi per pensioni, per queste cose, ecco, sono cose terroristiche oppure è vero? Perché quando andremo a votare e dovremo sentirci dire io ti tolgo l'ICI, io ti tolgo l'IMU, eccetera, eccetera, dovremo capire che cosa comporta, perché se io per una certa politica, non so, poi non avrò la pensione, non avrò lo stipendio se sono uno statale, allora potrò pregiudicare, se si tratta di bufale, se stanno giocando demagogicamente come sempre sulla mia credulità, perché penso che anche queste siano cose molto vere, oltre poi a quelle che sono le discussioni sulla linea politica di un partito, su quello che si deve fare, che per esempio nel mio partito, il Partito Democratico, mi interessa molto. Questo volevo dire. Grazie Maria Luisa, le risposte alle sue domande cercheremo di darle in prossime trasmissioni. Un po' di terrorismo si fa sempre, anche tattica politica ed elettorale. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, sorprendentemente nulla, volevo contribuire a una considerazione riguardo i 5 Stelle. Io ho votato 5 Stelle, indubbiamente ho votato per un cambiamento. Non capisco perché... E prima votava? Guardi, ho votato il PD, ho votato prima il PD perché ho creduto in loro, poi chiaramente sono un giovane, credo che stufo un po' di questo tipo di politica, ho cercato in quanto sia un cambiamento e chiaramente ho creduto un po' ai 5 Stelle perché il cambiamento ci dovrà essere, cioè dovuto a fatto il modo di fare politica. E quindi adesso cosa pensa? Adesso cosa penso? Vedo che chiaramente i 5 Stelle, che nonostante non vengono consultati perché sono abbandonati a se stessi, la prima cosa che si fa è criticarli in tutto e per tutto, tant'è vero sono stati considerati dei buffoni, cioè non capisco il perché. In più i buffoni per me dovrebbero essere quelli che hanno rappresentato la prima e la seconda e adesso la terza Repubblica, perché stiamo parlando sempre degli stessi, sono sempre come vede qua non li trattiamo da buffoni. Alessandro da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milan, grazie per l'opportunità. No, io non sono Milan, però va bene lo stesso, non si preoccupi. Volevo fare una piccola considerazione, è un appello. Io ero a Roma quando c'è stato il congresso del PD fuori, tranquillamente, e volevo fare un appello agli italiani. Tutti ora si riempiono la bocca di tanti bei discorsi, bisogna venire fuori agli italiani, venire l'incontro, la crisi e quant'altro. Ma ci rendiamo conto che la classe dirigente politica è tipo una Bindi, che quando c'è gente che la contesta tranquillamente, legittimamente, non sa fa altro che rispondere e dire a questo gli do un pugno. O la Finocchiaro che viene a dire che ha bisogno di più sicurezza quando va al supermercato, non per fare demagogia o populismo, quando va al supermercato con guardare il corpo e gli fanno la spesa, quando c'è gente che si ammazza, chiudono la gente. Ci rendiamo conto qual è la nostra classe politica che vive in un mondo coatto, non sa proprio che cos'è la vita reale? Volevo solo fare questa considerazione. Grazie Alessandro, scusi per l'errore. Sentiamo... No, vale, si figuri, sempre nell'ambito di città, Milan, Spezia, insomma, in qualche modo ci siamo. Roberto da Latina, buongiorno. Buongiorno a lei. Breve, sì, siamo quasi in chiusura. Io penso che più che parlare politichese bisognerebbe parlare di economia e bisognerebbe parlare di ripresa di questo paese. Ora, se noi consideriamo che le banche molti soldi, anzi la maggior parte dei soldi che dovrebbero mettere nella ripresa delle economie li investono in titoli di Stato, qui un minimo di riflessione ce lo dovremmo fare. E poi praticamente anche io sento dire un sacco di cose che riguardano i particolarismi delle varie posizioni politiche, però non sento una volontà di accordo, di tregua, per poter risolvere dei problemi che riguardano tutti trasversalmente. Grazie. Guardi, giro subito la domanda a Deborah Bergamini su questo tema, che mi sembra importante, perché abbiamo letto in questi giorni dei paletti messi dal PDL sulle banche, poi magari una volta ci torneremo in trasmissione, comunque Focus Economia ne parla spesso. Tenga presente che non è solamente una questione di acquisti di titoli di Stato, ma è anche una questione di condizione delle banche, anche dal punto di vista regolamentare, cioè delle regole che gli mette la Banca d'Italia, e anche di sofferenze, cioè crediti difficilmente o per nulla esigibili, del quale le banche italiane anche a causa della crisi sono cariche. Bergamini, in un minuto la risposta all'ascoltatore sul punto politico. Ma dunque, due cose. Uno, noi usciamo da una fase di conflitto politico durissimo che è andato avanti per quasi 20 anni, che ha seminato veramente morti in questi anni, mi riferisco ovviamente alla politicamente intendo. E quindi pensare a un disgelo in tempi rapidissimi fra le due maggiori forze politiche che si sono così tanto combattute in questi anni non è realistico, ma sta avvenendo. Sta avvenendo, però non sono d'accordo sul dire che PDL ha messo dei paletti, non abbiamo messo nessun paletto, abbiamo da subito dato grande disponibilità e mi creda, non è semplice da spiegare ai nostri 10 milioni di elettori. Ma lo stiamo facendo. Dall'altra parte però purtroppo... io posso non registrare, finisco, che c'è un caos oggettivo nel PD, sono loro a definirci impresentabili, ci fa schifo fare il governo con questo. Abbiamo 10 secondi, mi tagliano la linea. Bergamini, grazie a Valeria Bernardi, Davide Ciocia, Paolo Corleoni per la parte tecnica, Franco Piantanini in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo se volete domani con Voto Antonio, parliamo di rete politica come sempre, sempre qua da Perugia, a domani. Ricordati! Mancano 66 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.